Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Il governo ha varato il nuovo decreto sulle rinnovabili elettriche e il quinto conto energia, quello dedicato al fotovoltaico. E subito è partita la consueta coda di commenti, di allarmi, di osservazioni e così via. Ne parliamo, cerchiamo un po' di riassumere la situazione, con Tommaso Barbetti di Elements, che è una società di consulenza specializzata in analisi del mercato elettrico, in particolare proprio del mercato delle rinnovabili elettriche. Buonasera Barbetti, anzi ciao Tommaso, visto che ci conosciamo bene. Ciao Maurizio e buonasera a tutti i radioascoltatori. Allora, partiamo da un'analisi un po' magari anche brutale, però sintetica, delle nuove tariffe. La riduzione degli incentivi a quanto ammonta sulle varie tecnologie? Allora, la riduzione è importante, indubbiamente. Si va da una riduzione nell'ordine del 35-40% per l'eolico ad una riduzione nell'ordine del 40-45% per l'idroelettrico, fino ad arrivare al 50% circa di riduzione per le biomasse. Costituisce un capitolo a parte il fotovoltaico, che prevede un'ulteriore riduzione del 30% rispetto alle tariffe elaborate l'anno scorso nel quarto conto energia, all'interno appunto di questo nuovo dispositivo che è stato immediatamente ribattezzato quinto conto energia. D'accordo, quindi insomma dei cali significativi, anche se dobbiamo dire questi numeri non sono esattamente così per tutte le tipologie di impianto, no? No, c'è una varietà di riduzioni, noi abbiamo esemplificato un po' quelli più significativi delle taglie più adottate dal mercato per ciascuna fonte. Per ciascuna fonte. Ecco, ma confronto agli altri paesi europei qual è la situazione? Ma con questo decreto diciamo che gli incentivi vengono sostanzialmente allineati ai valori che si trovano negli altri paesi europei, per la verità allineati ancora un po' verso l'alto. Oltre alla riduzione delle tariffe ci sono anche altri, come dire, criteri che sono stati adottati, si direbbe, proprio per tenere buone le rinnovabili, evitare che esplodano un'altra volta. Sì, è stato introdotto un registro. Gli operatori già si aspettavano delle aste sopra i 5 megawatt. Cioè chi voleva fare un grande impianto doveva partecipare a un'asta e solo pochi avrebbero vinto, insomma, in questo solo modo si limitava. E che pochi vincano. La brutta sorpresa arriva però qualche giorno fa, quando in una bozza compare un meccanismo dei registri, già adottato peraltro nel fotovoltaico lo scorso anno, registri che di fatto contingentano gli incentivi assegnabili anche agli impianti sotto i 5 megawatt, per cui accederanno agli incentivi solamente degli impianti che rientreranno entro un certo limite di costo previsto dal decreto all'interno di una graduatoria. Risultato: tutta la potenza rinnovabile dal 2013 viene di fatto pianificata dal Ministero. In pratica, insomma, questo meccanismo serve a mettere un tappo alla possibilità degli impianti rinnovabili di proliferare. Naturalmente la riduzione delle tariffe, tra l'altro anticipata per quanto riguarda il fotovoltaico rispetto a quanto si era detto, non è piaciuta. Però possiamo parlare di un rischio tracollo del settore rinnovabili, perché molte associazioni di categoria industriale paventano questo. Però insomma, per essere onesti, dobbiamo ricordare che questo è già accaduto due volte, si è paventata la morte del settore fotovoltaico, poi ci sono state due bolle fotovoltaiche mesi dopo che sono costate care oggettivamente agli italiani. Ecco, oggi ci troviamo in una situazione analoga, si dice attenzione che qui crolla tutto. No, anticipo subito la conclusione, quindi, però vanno fatti alcuni distinguo. Sul fotovoltaico si è assistito a una progressiva riduzione delle tariffe, che però non sembravano mai essere sufficienti a compensare la diminuzione del costo della tecnologia. Qui stiamo parlando di tecnologie diverse rispetto al fotovoltaico, tecnologie che hanno raggiunto un grado di maturazione sicuramente maggiore e per cui quindi la riduzione dei costi tecnologici è già molto più difficile. Più avanzata. Quindi tu stai dicendo che è sugli altri settori, per esempio quello delle biomasse o quello dell'eolico o dell'idroelettrico, che potrebbero pesare di più queste riduzioni di incentivi, non tanto sul settore fotovoltaico, che potrebbe beneficiare di un'ulteriore diminuzione di costo tecnologico proprio. Presumo di sì. Per quanto riguarda le biomasse, la tecnologia è una tecnologia molto consolidata e prevedo che sia molto difficile una riduzione dei costi tali da pareggiare la riduzione dell'incentivo. Ecco, appunto, come reagiranno le aziende comunque a queste riduzioni di incentivi? Quali sono le alternative possibili realisticamente? Ma le reazioni delle aziende sono sempre un po' incognita. Io ne prevedo due alternative contrapposte. La prima, che prevede sostanzialmente un mantenimento della logica che purtroppo in buona parte ha accompagnato la produzione rinnovabile negli ultimi anni, che è una logica sostanzialmente finanziaria in alcuni casi, molto legata ai incentivi. Temo che chi manterrà un approccio di questo tipo sarà costretto a cercare mercati diversi rispetto all'Italia. Quindi probabilmente... Cioè, approccio di questo tipo, insomma, vuol dire comprare i pannelli in Cina, portarli in Italia, dargli una mano di vernice così passano per Made in Italy, rivenderli sostanzialmente, installarli. Questo per essere, come dire, brutali, ma è sì, l'approccio di cui stai parlando. Sì, questo è molto brutale, ce ne sono di meno brutali, certo. Però diciamo riassume molto della logica finanziaria che ha accompagnato certi... Certo, senza dubbio. Poi ci sarà un altro tipo di approccio, che sarà un approccio di chi cercherà di adattarsi alle nuove regole e che quindi cercherà di compensare la riduzione dell'incentivo con l'incremento di altre aree di attività e altri ricavi che fino ad oggi sono stati tenuti in secondo piano, forse anche per colpa di incentivi sufficientemente troppo generosi, che quindi non hanno portato ad un approccio industriale veramente di ottimizzazione economica di questi impianti. Ci puoi fare qualche esempio? Per quanto riguarda le biomasse c'è moltissimo da fare sul fronte della cogenerazione, quando la cogenerazione è possibile, perché naturalmente perché ci sia cogenerazione c'è bisogno di qualcuno che acquisti il calore. In generale dovrà anche un po' cambiare l'approccio nei confronti di quello che poi sarebbe anche il core business delle rinnovabili, cioè la produzione e la vendita dell'energia. Sappiamo che il costo dell'energia varia durante la giornata, eccetera, eccetera. Tu stai dicendo che giocando sul momento in cui si mette in rete l'energia è possibile migliorare i propri rendimenti economici. Certo, questo è uno dei punti. L'altro punto è che appunto bisogna prestare attenzione a produrre nel momento in cui si è pensato di produrre, si è programmato di produrre, perché certo, una volta che non lo si farà più si dovrà pagare uno sbaglio. Ed è questa la novità. È stato assorbito dalla collettività, da oggi verrà pagato. Okay. In più si dovrà partecipare direttamente, sempre di più, al mercato elettrico, quindi ruolo attivo nella produzione e nella vendita dell'energia elettrica. Da qui passa la sopravvivenza di una gran parte di questo settore. Dunque, grazie Tommaso Barbetti, ci fermiamo qui, ma torniamo domani a parlare di questo argomento, perché ci sono ancora un bel po' di cose da dire. Appuntamento domani.